la fiera di Santa di Sant'Anna, come me la dovevo immaginare all'epoca, molto diversa da adesso. Sì, tutta diversa, che era cipolle, angurie, oseletti, galline. Poi che era quella delle bestie, il fauno boario. Boario perché era la fiera delle bestie. Delle bestie. E mentre l'altra fiera era sparsa nei giardini, sì, piazza. Ma che era tutta roba diversa da adesso, perché sarà stata qualche banchetto, qualche vestiti. Ma le bambole. Sì, manca bambole. Era i bigliettini, no? Ti compri il bigliettino, dopo i film alle stazioni, dopo piatti, altri niente, allora pianti perché... E monteva su quei ciaceroni, diceva, vendeva i piatti, ti ricordi? Ah, sì, e diceva 100 lire... Cioè, era giù la ieri, fiera. Alla fiera, prima mercoledì, o la fiera Sant'Anna, e ieri il camion con sui piatti. E te li treva per aria, e te li fa girare sui denti. Dopo che era che salteva. Saltimbanchi. Anche quei, ma quei no, la fiera, no, ma che era degli alla sera, quei che veniva sì, a fare. Sì, che feva. In piazzale Segantini, sì. Ma la fiera di Sant'Anna era Anguria? Bellissima, rumorosa, da matti, proprio allora sì. Rumorosa. Perché uno godeva per i piatti e l'altro le bambole, l'altro l'era, ricordo, no, bellissima, perché era festa. Camminare. No, le ferie da De Sant'Anna, sì, cioè non le esiste neanche. Le bancarelle è più o meno come adesso. Però i personaggi erano diversi, cioè Gosaloni, cioè il prodotto e te lo sì, insomma, inimmaginabile dai mercati da adesso. La fiera di Sant'Anna, che era patrona, l'era un'enorme festa. Un'enorme festa di piazza, cioè veniva, non è che veniva anche dagli Sarche per la fiera di Sant'Anna. Sì, veniva da tutti i paesi intorno, poi era la fiera degli animali, vendeva tanti animali. Era proprio una festa vivace di partecipazione, tutto questo movimento, cioè la sentivi. Era veramente festa, ti vestivi dalla festa e ti facevi festa. Andando alle bancarelle, dopo bisogna andare in chiesa, perché senza la chiesa non si fa festa. Tutta questa confusione e dopo che era tanta gente perché veniva dai paesi. Veniva tutti dai paesi. A lavorare che si fa una volta che si fa delle zucchine. Perché una volta si spiegava a mano, si dava gli antigrittogrammici a spalle, si arava con i buoi. Perché il cavallo. Il cavallo, insomma, era tutto il lavoro manuale. Ah, per esempio, nel cortile così piccolo, cioè lì avevi i cunei, dopo là c'era le galline, dopo c'era là il lavatoio per lavarla, c'era un piccolo, la fontana, bagno, eccetera. Lì c'era la finestra dove quando attraversavi la porta veniva a fare il muso del cavallo. Cioè, nel posto così piccolo, c'era, non dico una fattoria, ma quasi. Se teneva in pieno nel solaio e ne metteva lì sulla strada a tirarlo su perché chi non si poteva. Cioè, no? Però dopo ha cominciato il turismo, tira muore e ne ha fatto solo. Chi dentro che era la macchina della pastura? Ecco cosa è restato della stalla. Qua così era due o tre mucche, mi non mi ricordo, il cavallo, forse il cavallo era quella, perché il cavallo veniva sempre fuori dalla finestra. Tutti i giorni doveva portare via sporche delle bestie perché le doveva essere pulite, no? E qua così era l'angolo dove butteva il letame, che dopo gli portava via tutta la posta e lo butteva in campagna. Una volta era così. Mi ricordo che il sabato il papà l'abitueva per la pulizia tutto e ne faceva fregare la sala. Pulizia massima. Ma chi l'è il cortile come l'era una volta col cavallo? Sì, c'era il Baldo, l'ultimo. Baldo. E qua che era tutta l'attaccapanni dove c'è quelle erbe, dove veniva su tutti i finimenti, la roba che serviva per il cavallo. Qua vedi che era tutti i sassi con le pietre. E gli diceva, allora mica avrà avuto 5 anni? Sì. Anche chi era tu sassi? Il tombino lì in mezzo era una pietra rotonda. Pensa che se si tira su e resta sotto qualcosa di questa pavimentazione, che l'era, pensando ad lei, era bellissima. Pietra rosa, bella. Pietra bellissima, e che era tutte le strisce altrettanto di pietra, come questa. Via Bettinati, l'era Tussassi, che era i Sarasai. Quando ero giovane, si andava in montagna, per legna, no? Chi era su contadini, sul Tramforio, su, e veniva su e Geve in car, e gli diceva il bros, perché lei veniva su montagna, lei veniva su con Dorode, e quando era lì a San Martino, metteva sotto le altre due, e si veniva su a strezzare la legna, e chi era in sasso la mattina, era su contadini, ma il 10 e 12 contadini che neva l'inverno e neva per legna, no? Un faceva sì, sì. Alle 5 metri, alle 6 di mattina, si faceva 3-4 ore di strada, andava su, a tagliare la legna e dopo veniva a notte. Sì. No, no, Ale. Deve essere stata dura. Questa, anche questa antichità, chi te sei in antichità? Vai giù da lì! La maglia incolorita. Ah, la ringhiera. La ringhiera. Da 90 anni. Un ferro speciale che rompeva i conti d'acqua. I due recipienti di pietra. Uno che tocca i fiori lì. E l'altro la fontana. Si adoperavano per l'olio. L'olio d'oliva si metteva lì. Perché allora non era recipienti di acciaio o niente, si metteva nella pietra. Quindi lei era un frantoio, insomma? No, i privati. Si andava al frantoio, si faceva l'olio, perché chi erano tanti faceva tanto olio. Non altri per 40, 50 quintali d'oliva, no? Sono tanti. Veramente tanti. E si raccoglieva tutta con le scale. Scalini? E dopo si faceva. Metteva un grembiule, metteva il grembiale. Era un cesto che aveva dietro la schiena e metteva tu. Allora noi che avevamo ancora le botte, fa che vedere le botte di lungo. Qualche anno dopo. Il bacco da seta. Qualche novaggio, aveva un quintale di bottoli. Dopo veniva fuori la seta artificiale, la scelta artificiale la blocca tu. I cavalieri mi ricordano anche a me quei bacchi da seta. Mia mamma era bravissima di coltivarli, perché erano anche delicati, doveva c'è per fretta. Ieri era le arele, che una piccolina, la ancorlina, rilinò, che superi. E... Cosa sei le arele, cosa che l'è? Le arele? No, vengono e fago vedere una. Questa. Dove su queste... gli metteva su questi bacchi da seta, ma sotto credo che fa come un letto di gelsi. All'inizio, quando era piccolini, ne va torli le sementi, ne va torli in casa dei gelmi, fora, quei gelmi qui, che avevo un amico, la sesta, la che metteva sotto il tovagliolo bianco, e metteva dentro una cartella così, di questa roba, gli vendeva once. Che diceva nonza e mezza, così, no? Cartella così. Com'era i bruchi? No, niente, non si vedeva niente, era somenze. Le portava a casa. Sementi. Ecco, le sementi. E lì le teneva finché quello che teneva sulla foglia all'inizio, fina, come la cicoria. E per me si sgrandeva e veniva fuori dopo un ambiente più grande questo, pieno di sta roba. Ed era un bis così. E dopo bisognava togliere zo, pelare, che via intorno, e poi si portava la massa e pagava bene. Era un'entrata molto, molto... Per quei tempi. Sì, per allora sì, la zia Bemana che l'era entrata. E se sareva dentro e sta. Le gare gialle. Un bozzolo, pareva come una galettina. E gli diceva, pela le galette, allora le tireva in su. Tireva via la seta. E tireva via tutto bozzoli, da sta roba, no, che le avevano peli come. Era come, non so, la lana, un pel così intorno, no? E si tireva via, e li metteva, metteva nel sacco e li vendeva alla cooperativa. E l'era seta. E per esempio, mia mamma, quando che era li faloppe, quelle che non ne riusciva, quelle che non usciva, per esempio, erano quelle che gli era faloppe, e la diceva mia mamma, non era forte. E li dopreva da fare i calzetti, allora, li faceva i calzetti, era mia nonna, la veniva su da Bologna, mia nonna con la molinella e lei mi ricordo mica lei fileva, no? Ma allora sì, quelle lì le metteva nell'acqua bollente, che erano le vecchiotte, e dopo bisogna filarli, eh? E dopo si porteva alla cooperativa, che era qui dove era che era la cooperativa dei contadini. Ecco, e lì, non so. Chiedeva i forni per scutare la crisalide. Sì, ma dopo che quello era dentro, no. Che era la filanda fora, che erano le donne che veniva a lavorarle, no? E gli diceva che era sempre le mani nell'acqua calda per queste galette. Le gare bianche e le gare gialle. Le galette, lei, i bossoli che resteva dopo galette, che aveva tirato via la seta. Quando le ranette gli mettevano dei ninsoi perché doveva essere pulite così. Camicetta di seta pura, era preziosissima quella seta. Quando aveva la fiera di Sant'Anna, che aveva l'estate, e che era quei che vendeva le matrasse di seta, gialla e bianca, le erano meraviglie.